Capitolo 46. Poiché Fanny non dubitava che la sua risposta avesse procurato un vero disappunto, si aspettava, conoscendo il carattere di Miss Crawford, di venire nuovamente sollecitata con urgenza, e benché per un'intera settimana non ne ricevesse notizie, quando le giunse la seconda lettera, era ancora dello stesso avviso. Nell'aprirla si accorse che era molto breve ed ebbe l'impressione che si trattasse di una lettera d'affari, scritta con evidente fretta. Il suo oggetto era prevedibile e i 2 minuti che le occorsero per spiegare il foglio furono sufficienti a darle il tempo di supporre che probabilmente si limitava a comunicarle che lei e il fratello sarebbero stati a Portsmouth quel giorno stesso, a darle cioè una notizia che l'avrebbe messa in grande agitazione e avrebbe riproposto il dubbio su ciò che doveva fare. Ma se 2 minuti possono chiuderci in un cerchio di difficoltà, o un terzo basta a liberarcene, e prima ancora di aver finito di aprire la lettera, il pensiero che Mr. e Miss Crawford si fossero rivolti allo zio e da lui avessero ottenuto il permesso di andarla a prendere le ridiede la calma. Poi lesse. Una scandalosissima, malintenzionata voce mi è appena giunta all'orecchio e le scrivo, cara Fanny, per metterla in guardia del darle il benché minimo credito, se mai dovesse arrivare fino a lei. Creda per certo che vi è un errore e che fra un paio di giorni ogni cosa sarà messa in chiaro. Creda in ogni caso che Harry non ha colpa e che a dispetto di un momento di étourderie egli non pensa a nessun altro all'infuori di lei. Non ne faccia parola, non ascolti, non supponga nulla, non sussurri nulla finché io non le abbia scritto di nuovo. Sono sicura che ogni cosa sarà messa a tacere e che nulla verrà dimostrato se non la stoltezza di Rushworth. Se veramente se ne sono andati, mi gioco la vita che si sono semplicemente recati a Mansfield Park e che Giulia è con loro. Ma perché non ha voluto che la venissimo a prendere? Spero che non se ne debba pentire. Sua, eccetera, eccetera. Fanny era senza fiato. Siccome nessuna voce scandalosa e malintenzionata era giunta fino a lei, le era impossibile capire granché di quella strana lettera. Poteva solo rendersi conto che alludeva ai cugini di Wimpole Street e a Mr. Crawford e solamente congetturare che era stata commessa una qualche azione molto imprudente, tale da attirare l'attenzione degli estranei e da suscitare, a quanto temeva Miss Crawford, la gelosia di lei, Fanny, se lo fosse venuta a sapere. Miss Crawford non aveva bisogno di allarmarsi per quel che la riguardava. Fanny era in pena solamente per le persone implicate nel probabile pettegolezzo e per Mansfield, se le dicerie dovessero giungere fin là. Ma sperava di no. Se i Rushworth erano andati di persona a Mansfield, come c'era da inferire da quanto Miss Crawford scriveva, non era probabile che una voce, una qualche voce spiacevole li avesse preceduti, o perlomeno fosse tale da suscitare scalpore. Per quel che riguardava Mr. Crawford, sperava che quanto era accaduto gli desse modo di conoscere meglio le proprie vere disposizioni, convincendolo che non era capace di restare fermamente legato a qualsivoglia donna e inducendolo a non persistere oltre nel corteggiare lei. Strano, però, aveva incominciato a pensare che gli l'amasse veramente e immaginare che l'affetto che nutriva per lei fosse qualcosa fuori dal comune. E sua sorella continuava a ripetere che era lei, Fanny, la sola che gli importava. Eppure le sue attenzioni verso Mrs. Rushworth dovevano essere state ben palesi e indiscrete, visto che chi scriveva non era tipo da dar peso a cose di minor conto. Fanny si sentiva inquieta e turbata e sapeva che questo suo stato d'animo sarebbe durato finché non avesse ricevuto altre notizie di Miss Crawford. Le era impossibile non pensare a quella lettera, né d'altra parte poteva trovar sollievo parlandone con altri. Non c'era alcun bisogno che Miss Crawford le raccomandasse con tanto calore di mantenere il segreto. Avrebbe ben dovuto sapere che lei non sarebbe mai venuta meno a quanto era dovuto alla cugina. Il giorno seguente giunse senza portarle una seconda lettera. Fanny rimase delusa. Non pensò ad altro durante la mattinata, ma quando suo padre rientrò dalla solita passeggiata pomeridiana portando con sé il giornale quotidiano, era così lungi dall'aspettarsi una qualsiasi delucidazione da quella parte che per un momento si distrasse e la cosa le uscì di mente. Era sprofondata in altre meditazioni. Le tornò alla mente la prima serata trascorsa in quella stanza, il padre e il suo giornale. Ora non occorreva già una candela, il sole sarebbe rimasto ancora un'ora e mezza alto sull'orizzonte. Davvero, era lì da 3 mesi. E i raggi del sole, penetrando con prepotenza nel soggiorno, invece di rallegrarla, la rendevano ancora più malinconica. In città la luce del sole le sembrava totalmente diversa da come era in campagna. Qui la sua forza si limitava a creare un riverbero accecante, opprimente, come malato, buono soltanto a mettere in risalto macchie e sudiciume che altrimenti avrebbe potuto sonnecchiare nascosto. Non vi era né salute né gaiezza in quel sole cittadino. Fanny sedeva in una vampa di opprimente calore, in una nube di danzante pulviscolo, e i suoi occhi potevano solamente vagare dalle pareti segnate dall'ombra del capo di suo padre al tavolo dal piano tagliuzzato e intaccato dai temperini dei fratelli, dove poggiavano il vassoio del tè, mai completamente pulito, con le tazze e i piattini malamente asciugati, il latte, miscuglio di grumi galleggianti in un liquido rado di un pallore livido, e il pane imburrato che di minuto in minuto diventava anche più unto di quando era uscito dalle mani di Rebecca. Mentre il tè veniva preparato, il padre leggeva il giornale e la madre si lamentava come al solito per il tappeto consunto, augurandosi che Rebecca lo rammendasse. Fanny fu riscossa dal suo nome pronunciato dal padre, dopo che, sbuffando, ebbe letto attentamente un paragrafo che aveva attirato la sua attenzione. «Come si chiamano i tuoi altolocati cugini di città, Fan?» Un istante per riprendersi rispose «Rushworth, signore». E non abitano in Wimpole Street? Sì, signore. Allora si è scatenato il diavolo in mezzo a loro. Ecco tutto qua, porgendole il giornale. Un gran bene possono farti queste grandiose parentele. Non so cosa pensi Sir Thomas di cose del genere. Può essere un troppo perfetto cortigiano e gran gentiluomo per volere meno bene a sua figlia, ma per Dio, se fosse mia figlia, la frusterei con una cima finché avessi la forza di starle sopra. Una buona frustata sia per l'uomo che per la donna sarebbe il miglior modo di evitare simili cose. Fanny leggeva in silenzio che, col massimo rincrescimento, il giornale doveva annunciare la grave crisi matrimoniale occorsa nella famiglia di Mr. Rushworth di Wimpole Street, la bella Mrs. Rushworth, il cui nome non era entrato da molto tempo a far parte delle seguaci di Imeneo, e che aveva dato promessa di diventare una così brillante guida nella società elegante, aveva abbandonato il tetto coniugale in compagnia del ben noto ed attraente Mr. Crawford, intimo amico e compagno di Mr. Rushworth, e non era risaputo nemmeno dal direttore del giornale dove essi fossero diretti. «È un errore, signore», disse Fanny di slancio. «Deve essere un errore, non può essere vero, deve trattarsi di altre persone». Parlava, spinta dall'istintivo desiderio di allontanare quella vergogna. Parlava con una risolutezza che nasceva dalla disperazione, poiché diceva quello che non poteva credere, che non credeva lei stessa. Era stata colpita, convinta, travolta da quanto aveva letto. Era vero. E come le fosse riuscito di parlare, come avesse potuto continuare a respirare, fu in seguito motivo di stupore per lei stessa. A Mr. Price la notizia non importava, era troppo indifferente perché si desse la briga di risponderle granché. Sì, è possibile che sia tutta una montatura, ammise. Ma tante belle signore se ne vanno al diavolo a quel modo al giorno d'oggi che non si può garantire per nessuna. Oh, spero proprio che non sia vero, disse Mrs. Price con tono lamentoso. Sarebbe così sconveniente. Non una volta, 10 volte ho parlato a Rebecca a proposito di questo tappeto. Non è vero, Betsy? E non ci vorrebbero che 10 minuti per fare il lavoro. L'orrore provato da un'indole come quella di Fanny nel ricevere la notizia sicura di una simile colpa e nell'incominciare a rendersi conto, almeno in parte, della desolazione che doveva conseguirne per i suoi, può difficilmente essere descritta. A tutta prima rimase come intontita, ma ogni minuto che passava acuiva in lei la percezione dell'orribile calamità che si era abbattuta sulla famiglia. Non poteva dubitare, non osava abbandonarsi alla speranza che il paragrafo fosse un infondato pettegolezzo. La lettera di Miss Crawford, che aveva letto tante volte da saperne quasi a memoria ogni riga, era in spaventosa consonanza con quanto diceva il giornale. l'ansiosa difesa del fratello, la speranza che la cosa venisse messa a tacere, l'evidente agitazione con cui la lettera era stata scritta facevano necessariamente pensare a qualcosa di molto grave. Non solo, ma se mai esisteva una donna capace di trattare come cosa da poco un peccato fra i più gravi, capace di tentare di renderlo accettabile e desiderare che andasse impunito, questa donna era Miss Crawford, ne era certa. Ora si rendeva conto di quanto si era ingannata a proposito di chi se n'era andato, o si diceva che se ne fosse andato. Non si trattava di Mr. e Mrs. Rushworth, ma di Mrs. Rushworth e di Mr. Crawford. A Fanny sembrava di non aver mai saputo prima di allora cosa significasse l'essere sconvolta. E non v'era tregua. La serata passò senza una pausa nella desolazione che la opprimeva. La notte fu completamente insonne. Passava da una sensazione di nausea a brividi di orrore e da calde puntate di febbre a un senso di gelo. Quanto era avvenuto era così ripugnante che vi erano momenti in cui il suo cuore si ribellava alla certezza e si ripeteva che era impossibile e giungeva a pensare che non poteva essere vero. Una donna che si era sposata solo 6 mesi prima, un uomo che si dichiarava devoto, perfino impegnato con un'altra e quest'altra una parente prossima. L'intera famiglia, le due famiglie legate com'erano da nodo su nodo, tutti amici, tutti intimi. Era una troppo orribile confusione di colpe, un troppo volgare cumulo di malvagità, perché la natura umana, a meno di essere in uno stato di totale barbarie, fosse capace di tanto. Eppure il buon senso le diceva che era così. Gli incostanti affetti e la vanità di lui, la passione di Maria e l'assenza in entrambi di principi sufficientemente saldi rendevano la cosa possibile. La lettera di Miss Crawford vi imprimeva il marchio del fatto accertato. Quali sarebbero state le conseguenze? Chi non ne sarebbe stato danneggiato? Chi non avrebbe visto la propria pace compromessa per sempre? Miss Crawford, lei stessa, Edmund. Ma forse era pericoloso avventurarsi su un simile terreno. Si limitò, o tentò di limitarsi, a pensare alla sola indubitabile desolazione della famiglia che avrebbe necessariamente travolto tutti quanti se si trattava realmente di una colpa accertata e di un pubblico scandalo. La sofferenza della madre, quella del padre, e a questo punto fece una pausa. Di Giulia, di Tom, di Edmund, e qui una pausa ancora più lunga. Erano due le persone che sarebbero state più crudelmente colpite. La sollecitudine paterna di Sir Thomas, il suo alto senso dell'onore e del decoro, i principi elevati di Edmund, la sua indole fiduciosa e la genuina forza dei suoi sentimenti, le faceva pensare che sarebbe stato loro quasi impossibile sopportare la vita e comportarsi secondo ragione sotto il peso di una simile vergogna, e le sembrava che in questo mondo terreno la maggior benedizione per tutti quelli della stirpe di Mrs. Rushworth fosse scomparire, piombare istantaneamente nel nulla. Né il giorno immediatamente successivo né quello che seguì apportò nulla che placasse i suoi terrori. La posta arrivò e non giunse nessuna confutazione pubblica o privata. Nessuna lettera di Miss Crawford chiarì o smentì il contenuto della prima. Non vi furono notizie da Mansfield, benché fosse ormai tempo che la zia le scrivesse. Questo era un cattivo segno. Ormai Fanny quasi non sperava più di trovar sollievo ed era così depressa, debole e tremante che nessuna madre all'infuori di Mrs. Price, a meno di essere indifferente, avrebbe potuto non farci caso. Finalmente, al terzo giorno, udì quel suono sconvolgente, il postino che bussava alla porta, e una lettera le fu nuovamente posta fra le mani. Portava il timbro di Londra ed era di Edmund. Cara Fanny, tu sei al corrente della disgrazia che ci ha colpiti. Possa Dio aiutarti a portare la tua parte di questa pena. Siamo qui da 2 giorni, ma non vi è nulla da fare. Non si riesce a trovare le loro tracce. Ma non puoi aver saputo l'ultimo colpo che ci piomba addosso, la fuga di Giulia. Se n'è andata con Yates in Scozia. Ha lasciato Londra poche ore prima che vi giungessimo. In qualsiasi altro momento questo ci sarebbe parso terribile. Ora sembra quasi un niente, tuttavia è un pesante aggravio della situazione. Mio padre non è accasciato, non possiamo sperare nulla di più. È pienamente in condizione di pensare e agire. Scrivo per suo incarico per proporti di tornare a casa. È ansioso di riaverti a Mansfield per amore di mia madre. Sarò dunque a Portsmouth la mattina seguente all'arrivo di queste righe e spero di trovarti pronta a partire con me. Mio padre desidera che tu inviti Susan a venire con te e a fermarsi per alcuni mesi. Sistema le cose come preferisci, fa quel che ti sembra appropriato. Sono sicuro che capisci quale prova del suo affetto ti dà in un simile momento. Rendi giustizia alle sue intenzioni, per quanto confusamente io te ne scriva. Puoi immaginare in quale stato io mi trovi. Non c'è fine alle sventure che si sono abbattute su di noi. Mi vedrai arrivare per tempo con la carrozza postale, tuo, eccetera, eccetera. Fanny non aveva mai sentito maggior bisogno di un cordiale e mai gliene era stato porto uno simile a quello contenuto nella lettera. L'indomani. Lasciare Portsmouth l'indomani. Era, capiva di essere, in grande pericolo di sentirsi squisitamente felice mentre tanti dei suoi cari erano disperati, da quanto male derivava quel bene così grande. Temeva di diventare insensibile al dolore altrui. Partire così presto, chiamata con tanto affetto, chiamata per essere di conforto e col permesso di condurre Susan con sé. Ah, tutte queste gioie le colmavano il cuore, sembravano per un istante allontanare ogni pena, rendendola incapace di partecipare, come doveva, al dolore, perfino di quelli stessi a cui dolore pensava continuamente. La fuga di Giulia poteva toccarla solo superficialmente. Era sbalordita e scandalizzata, ma non poteva occuparle la mente, non poteva fissarvi il pensiero. Doveva fare uno sforzo per lamentarsene, per costringersi a pensare che era un fatto terribile e penoso, ma per lo più lo dimenticava. In mezzo al turbamento, all'urgenza, alla gioia dei pensieri suscitati dall'essere stata richiamata a casa. Nulla vale ad alleviare il dolore più del doversi occupare attivamente, indispensabilmente. Un'occupazione, anche se malinconica, può dissipare la malinconia, tanto più le occupazioni sue che erano piene di speranza. Aveva tanto da fare che nemmeno l'orribile storia di Mrs. Rushworth, ormai accertata e confermata, poteva affliggerla come aveva fatto fino a poco prima. Non aveva tempo di soffrire, sperava di essere in viaggio da lì a 24 ore. Bisognava parlare col padre e con la madre. Susan doveva essere avvertita, ogni cosa doveva essere pronta. Un impegno incalzava l'altro, la giornata era appena sufficientemente lunga. La felicità che lei era in grado di procurare alla sorella, felicità che poteva essere offuscata a malapena dalla triste comunicazione che la doveva brevemente precedere. Il lieto consenso del padre e della madre alla partenza di Susan, la generale soddisfazione con cui la prospettiva della loro duplice partenza sembrava fosse accolta da tutti, e l'estasi di Susan stessa, tutto serviva a sostenerle lo spirito. L'afflizione dei Bertram era ben poco condivisa lì in famiglia. Mrs. Price parlò della sua povera sorella per alcuni minuti, ma il come trovar qualcosa di adatto per mettervi gli indumenti di Susan, visto che Rebecca si appropriava di tutti i bauli e regolarmente li rovinava, le occupava molto più la mente. Quanto a Susan, era inaspettatamente appagata nel suo più grande desiderio. Lei non conosceva direttamente né le cugine che avevano peccato, né i parenti che erano gravemente afflitti. Che fosse disposta a rallegrarsi senza riserve era quanto ci si doveva aspettare dall'indole di una quattordicenne. Siccome nulla fu veramente lasciato alla decisione di Mrs. Price o alla buona volontà di Rebecca, ogni cosa fu fatta razionalmente e debitamente e le ragazze furono pronte in tempo per la partenza dell'indomani. Contare sul beneficio di un lungo sonno che le preparasse al viaggio era impossibile. Il pensiero del cugino che stava viaggiando alla loro volta non poteva non presentarsi alla mente agitata delle giovinette, l'una tutta felicità, l'altra tutto un avvicendarsi di indicibili turbamenti. Alle 8, la mattina seguente, Edmund era già in casa. Le ragazze dal piano di sopra lo udirono arrivare e Fanny scese. Il pensiero di essere sul punto di incontrarlo, sapendo quel che egli doveva soffrire, le aveva riportato tutti i sentimenti dei giorni scorsi. Lui, così vicino a lei e desolato, si sentiva addirittura venir meno quando entrò nel soggiorno. Era solo e le andò incontro di slancio e si trovò stretta fra le sue braccia mentre egli diceva poche parole a malapena articolate. La mia Fanny, la mia unica sorella, il mio unico conforto ormai. Lei non poté dir parola, né per alcuni minuti lui poté aggiungere altro. Egli si allontanò un momento per riprendersi e quando incominciò a parlare, benché la sua voce non fosse ancora ferma, i suoi modi dicevano la volontà di controllarsi e l'intenzione di evitare ogni ulteriore allusione a quanto era accaduto. Hai fatto colazione? Quando sarai pronta? E Susan, viene anche lei? Furono queste le domande che si susseguirono rapidamente. Il suo principale obiettivo era di partire al più presto possibile. Quando si consideravano le necessità di Mansfield, il tempo era prezioso, non solo, ma il suo stato d'animo gli faceva trovare sollievo solo nel moto. Fu stabilito che desse ordine alla carrozza di trovarsi alla porta di casa di lì a mezz'ora. Fanny garantì che in 30 minuti avrebbero fatto colazione e sarebbero state perfettamente pronte. Lui aveva già mangiato e rifiutò di assistere al loro pasto. Avrebbe fatto il giro dei bastioni e le avrebbe raggiunte insieme con la carrozza e uscì di nuovo contento di essersi sottratto perfino a Fanny. Era molto sciupato, risentiva evidentemente delle violente emozioni che era determinato a reprimere. Fanny sapeva che non poteva essere altrimenti, ma per lei era terribile vederlo così. La carrozza giunse e proprio nello stesso momento tornò Edmund, giusto in tempo per trascorrere pochi minuti con la famiglia ed assistere, ma non vide nulla al modo tranquillo con cui i Price si separarono dalle figliole. Giusto in tempo, comunque, per impedire che la famiglia sedesse alla tavola della colazione, che grazie a un grande, insolito spiegamento di solerzia, si trovò completamente pronta mentre la carrozza si allontanava dalla porta di casa. L'ultimo pasto di Fanny nella casa paterna fu così perfettamente in carattere col primo, ne fu congedata con lo stesso spiegamento di ospitalità con cui vi era stata accolta. Come il suo cuore si gonfiasse di gioia e di gratitudine quando oltrepassò le barriere di Portsmouth e come il viso di Susan fosse illuminato dal suo più raggiante sorriso può facilmente essere immaginato. Tuttavia, seduta come era sul sedile anteriore e schermata dal cappellino a cuffia, quei sorrisi non furono notati. Il viaggio evidentemente era destinato ad essere silenzioso. I profondi sospiri di Edmund giungevano spesso all'orecchio di Fanny. Se egli si fosse trovato solo con lei, le avrebbe aperto il cuore a dispetto di ogni risoluzione, ma la presenza di Susan lo induceva a rinchiudersi in se stesso e i suoi tentativi di parlare di argomenti indifferenti non riuscivano a sostenersi a lungo. Fanny lo osservava con instancabile sollecitudine e a volte, incontrando nello sguardo, riceveva un sorriso affettuoso che la riconfortava. Ma la prima giornata del viaggio trascorse senza che udisse da lui una sola parola su quanto lo opprimeva. La mattina seguente portò con sé qualcosa di più. Proprio prima di partire per Oxford, mentre Susan, piantata vicino a una finestra, osservava con grande interesse la partenza di una famiglia numerosa che lasciava la locanda, gli altri due se ne stavano vicino al caminetto acceso e Edmund, vivamente colpito dall'aspetto alterato di Fanny e ignorando le quotidiane angustie da lei sofferte in casa del padre, attribuendo parte del cambiamento, anzi attribuendolo tutto a quanto era recentemente avvenuto, le prese la mano e disse con voce bassa ma piena di espressione: Non c'è da meravigliarsi che tu ne soffra, ne devi soffrire. Com'è possibile che un uomo che ti ha amato ti abbandoni? Ma il tuo sentimento era recente, paragonato al Fanny. Pensa a me. Il giorno successivo, la prima tappa del loro viaggio richiese una intera giornata e li condusse a Oxford, dove giunsero quasi esausti. Ma la seconda si concluse assai più rapidamente e si trovarono nei dintorni di Mansfield assai prima dell'ora di pranzo. E a mano che si avvicinavano a quel luogo amatissimo, il cuore delle due sorelle si andò stringendo. Fanny incominciò a temere l'incontro con le zie e con Tom sotto l'ombra della tremenda umiliazione che li opprimeva. E Susan incominciò a sentire con una certa ansietà che tutte le sue maniere migliori, tutta la conoscenza recentemente acquisita degli usi che si praticavano in quella casa erano sul punto di essere messe alla prova. Esempi di buona e di cattiva educazione, di antiche volgarità e di nuove raffinatezze le si presentavano alla mente e riflettevano intensamente sulle svariate forchette d'argento, sui tovaglioli e sulle ciotoline per sciacquarvi la punta delle dita. Feni andava confrontando in silenzio, ovunque passavano, il paesaggio che aveva lasciato a febbraio con quello attuale. Ma quando entrarono nel parco, le sue percezioni e il suo godimento si fecero acutissimi. Erano 3 mesi, 3 mesi pieni da quando se n'era allontanata. Dall'inverno si era passati all'estate. I suoi occhi si posavano ogni dove, su prati e su colture del più fresco verde, e gli alberi, benché non ancora completamente rivestiti di foglie, erano in quella fase deliziosa quando il loro aspetto dice che una nuova bellezza è alle soglie e che mentre tanto già incanta lo sguardo, molto rimane ancora da immaginare. Il suo godimento però era tutto per lei sola. Edmund non era in condizioni di condividerlo. Lo guardò, ma egli si teneva appoggiato allo schienale con espressione più cupa che mai, con gli occhi chiusi, come oppresso da quella vista serena, come se volesse tagliar fuori lo scenario incantevole di quella che era la sua casa. Ciò le ridiede tutta la sua tristezza e la coscienza di quello che là si stava sopportando e soffrendo rivestì di un velo di malinconia quella dimora così moderna, ariosa, così ben situata. Delle persone che, riunite dentro casa, vi trascorrevano le loro giornate nell'amarezza e nel dolore. Una l'attendeva con un'impazienza che mai prima di allora Fanny aveva conosciuto. Aveva malapena oltrepassato i domestici schierati con aria solenne quando Lady Bertram uscì dal salotto per venirle incontro. Si fece avanti con passo insolitamente svelto e cadendole fra le braccia disse: «Cara Fanny, ora non avrò bisogno d'altro».